E ve l'avevamo detto al sabato del villaggio che questo sarebbe stato il tormentone dell'estate, che lui sarebbe stato uno dei personaggi di cui avremmo parlato di più. L'abbiamo incontrato un mesetto fa quando è venuto in Italia e infatti è stato annunciato, sarà uno dei nuovi giudici di X Factor. Quindi seguiteci, perché noi vi diciamo le cose giuste, diamo un po' di dritte per orientarvi un po' nel nostro villaggio globale. Il sabato del villaggio, questo fine settimana, ve l'ho detto, in questa puntata parla dello spettacolo del pallone. Abbiamo sentito con Giovanni Capuano la grande sfida spagnola di questa sera. In Italia, due squadre spagnole, ormai noi possiamo solo invidiare questo calcio spagnolo che non si ferma mai. Ma come si mangia in Spagna? Il nostro Davide Paolini mi ha mandato una mail per anticiparmi il tema di questa settimana e partiva con "In Spagna se magna". E allora ci colleghiamo col nostro gastronauta. In Spagna se magna? Ciao Davide! Sì, se si magna. Si mangia anche perché c'è la rivoluzione che c'è stata nel calcio, con questo predominio ormai da anni del Barcellona, del Real Madrid, dell'Atletico Madrid, e negli ultimi 15 anni si è riscontrato anche in cucina, perché è arrivato un ciclone un po' di anni fa che si chiamava Ferran Adrià, che ha influito un po' su tutte le cucine del mondo e anche in Italia ha avuto molti proseliti, quindi c'è stata un'influenza incredibile della cucina spagnola, ma non quella tradizionale, di una cucina completamente nuova, inventata. Dimmi subito se Ferran Adrià, siccome per molti è veramente un grande guru e per altri un grande bluff, secondo te? Dunque, io ho un rapporto anche, ho avuto anche un rapporto di amicizia con Ferran Adrià. Io l'ho considerato lo chef del secolo, che non ha fatto cucina, ma ha fatto meta cucina. Per me vuol dire che è andato oltre la cucina, cioè andare da Ferran Adrià semplicemente per inghiottire dei pasti o dei piatti era completamente sbagliato. Cioè andare da Ferran Adrià bisognava pensare con tutti i nostri sensi che abbiamo e anche riflettere su quello che si mangiava. Qualcuno mi potrà dire, ma è una cosa particolare. Bene, per questo io l'ho chiamata meta cucina. Però ha rivoluzionato, sicuramente è stato un rivoluzionario, molto più della nouvelle cuisine, ora della cucina danese. È stato colui che ha veramente rotto degli schemi, dei canoni che duravano da 100 anni. Quindi non a caso tu parli al passato, però, perché in questo momento... Perché ha chiuso l'attività nel 2011. E devo dire che perché ha chiuso? Ha chiuso perché secondo me la sua creatività era finita, cioè era arrivata a un punto in cui andare oltre quello che aveva creato non era possibile e molto giustamente ha chiuso. Ci sono molti invece cuochi che continuano a imperversare pur non avendo più niente da dire. Ecco, per me è diciamo che lo stimo anche per questo. Aver detto basta nonostante con 5.000 richieste di posti a tavola, aveva, ha detto stop. Ecco, secondo me, e nonostante la sua età, perché lui è del 62, giovane, quindi è giovane. Sì, giovane. Però, sai, ha lasciato molto. Ha lasciato molto perché se andiamo a vedere la graduatoria che viene fatta ogni anno dei 50 migliori chef del mondo, e c'ha da anni sempre uno spagnolo. Si è alternato negli ultimi anni con un danese, però dopo Ferran Adrià, i fratelli Roja di Girona. I fratelli Rocca di Girona imperversano, sono primi, e quindi non solo sono primi, nei primi 10 ci sono 3 spagnoli, c'è un altro che si chiama Mugarizzi, il ristorante, lui si chiama Andoni, ma come vedi è una scuola che ha lasciato. Poi, come ti dico, secondo me gli epigoni sono sempre diversi e io diffido sempre degli epigoni, quindi per me Ferran Adrià rimane unico. Poi chi lo ha seguito, diciamo che non mi trova così entusiasta come lui, come è stato lui, ma devo dire che però anche nella graduatoria dei primi 10 ci sono molti che sicuramente seguono molto delle idee di Ferran Adrià, quindi ha seminato. Però ti voglio anche dire questo, sì, che diciamo che tutto il boom della cucina spagnola è stato in due regioni, la Catalogna e i Paesi Baschi. Quindi, Madrid non esprime molto. Madrid esprime due grandi squadre di calcio. Sì, appunto, questa sera sì, però la cucina no. Dal punto di vista gastronomico c'è un ristorante che sicuramente sta facendo parlare molto di sé a Madrid, che si chiama Diverxo, Io ecco, invito i nostri radioascoltatori ad andare a vedere su internet Diverxo. Guarda, lo faccio per subito. Vedere com'è la presentazione. La presentazione è folle. Io credo di non aver mai visto una presentazione come in questo ristorante, anche dentro. È un ristorante un po'... Allora, intanto la definizione è cocina de fusion mediterranea e cina, cioè cucina di fusion mediterranea e cinese, principalmente con alcuna influenza giapponese, quindi con anche influenze giapponesi, un po' di tutto. Sì, infatti uno che ha lavorato molto in Oriente, un ragazzo molto giovane, si chiama David Muñoz, e devo dire che è un po' la stella nascente, completamente diverso da tutti gli altri. Vabbè, ma piercing, tatuaggi, cresta... C'è di tutto, ma anche se ti metti a tavola c'è un po' di tutto, succede un po' di tutto. Però la Michelin gli ha dato 3 stelle e a Madrid non succedeva da tanti anni, perché nel periodo che è imperversata la Catalogna e imperversati i Paesi Baschi c'era solamente Zalacain che ha avuto 3 stelle ma 20 anni fa, e quindi poi è sparito. Ma questo personaggio, questo David Muñoz, ha anche uno street food dentro un grande magazzino alla Corte Anglais, che è famosissimo, la Corte Anglais, certo. A Madrid, che si chiama Street X0, e sta imperversando in giro per il mondo perché sta aprendo Londra e New York anche con questo posto. Quindi diciamo che Madrid ha di nuovo la sua stella. Ma per tornare agli spagnoli, e ora c'è un nastro nascente che si chiama Azumendi, mm-hmm. e anche questo nei Paesi Baschi, e diciamo che è il nuovo con questo Diverxo, quindi c'è sempre qualcosa di nuovo. Però io ti dico, e lo dico chiaramente, che il mio preferito in Spagna si chiama Echebarri, Víctor Echebarri, ed è in un paese sperduto dei Paesi Baschi, in una specie di bosco naturale molto semplice, dove tutto avviene cotto in brace e padella, e devo dire che è molto alto anche lui nelle graduatorie, per carità, però c'ha una semplicità di cucina molto basata sui prodotti, che è molto diversa dai grandi nomi che sono sbocciati in questi anni in Spagna, per cui è una cucina che forse a noi italiani può piacere molto, ma molto di più, tant'è vero che molti hanno scoperto delle qualità particolari di un baccalà proprio in questo locale, e ci sono molti chef italiani, ma non voglio fare i nomi, che hanno scopiazzato abbondantemente. Facendosi arrivare proprio da Victor il baccalà in Italia. Così. Ma come si beve? Dunque, dal punto di vista vinicolo, la Spagna è sempre stato uno dei grandi paesi dopo la Francia e l'Italia. Negli ultimi anni la qualità è cresciuta molto. Prima, diciamo, la Rioja aveva dei vini molto, molto pesanti, probabilmente, noi italiani molto invecchiati. Non piacevano, però ora c'è un risveglio enorme anche in Spagna. E quindi si comincia da un po' di anni, si comincia a bere a buon mercato. Questo è un fatto che dà molto noia ai vini italiani. Poi c'è questa produzione di spumanti, il CAV, diciamo producono dei milioni di bottiglie e le stanno esportando in tutto il mondo. Però qua e là ci sono dei vini eccellenti in certe zone molto particolari, dove specialmente i rossi, perché i vecchi e i bianchi sono sempre molto invecchiati, e quindi devo dire che il palato a molti non piacciono. Però c'è una crescita sicuramente in Spagna di questo, ma è anche l'olio d'oliva spagnolo, che al palato di noi italiani non piace molto, però piace a livello internazionale. Anche l'olio ci dà molto noia sui mercati internazionali, quindi dal punto di vista gastronomico non dimentichiamo che siamo nel Mediterraneo. Certo. E le acciughe del Cantabrico sicuramente sono le migliori in assoluto. Cioè, io che sono un appassionato di acciughe ti dico che come quelle puoi andare, sì, io tanto rispetto di Cetara, di Sciacca in Italia, ma devo dire che le acciughe del Cantabrico sono veramente straordinarie, e anche molto pesce arriva dalla Spagna, quindi è una regione dal punto di vista gastronomico molto ricca, e che si può posizionare sì, sicuramente come l'Italia e la Francia, anche se diciamo c'è sempre sciovinismo, e certo. Come per i tifosi del Real Madrid e dell'Atletico Madrid sicuramente non pensano sicuramente al Milan o l'Inter, quindi diciamo che non c'è mai stata una finale di Coppa Europea tra due squadre della stessa città. quindi questo è un record. Certo. C'è stata solamente una finale tutta italiana, Milan-Juventus, nel 2000 e del 2003. Davide, non ti chiedo niente invece dei prosciutti spagnoli, perché siccome in questo momento è entrato in studio Enrico Pagliarini, ho paura che lui da modenese si possa offendere se parliamo di prosciutto. Non ne parliamo, vero Enrico? No, potete parlare, diciamo, se uno è in Spagna può mangiare prosciutto locale, se uno è in Italia cosa mangi? Ecco, sembra... Davide invece è un ascoltatore, poi salutiamo anche Enrico che intanto stavano mettendo lo studio. Un ascoltatore al 349-238-6666 ci chiede: ma Adrià avrebbe mai fatto programmi TV di cucina? Io so che lui ha fatto un'apparizione a un MasterChef spagnolo, non vorrei sbagliarmi, ma una comparsata l'ha fatta. Questo era uno molto discreto, addirittura non ha mai cucinato in pubblico, cioè diciamo nei grandi congressi internazionali, parlava molto, però poi di fatto faceva vedere ben poco, e quindi era molto ma molto abile. No, lui lavora molto con i filmati con Google ora che ha questa fondazione, certo. Però non mi risulta che abbia fatto mai una trasmissione televisiva in Spagna, forse... Il fenomeno è più che altro inglese, americano e italiano, il fenomeno degli chef in cucina, poco francese e poco spagnolo. Allora Davide, la prossima settimana torniamo in Italia, perché questo è stato così un viaggio in Spagna in omaggio a questo spettacolo del pallone che ci sta tenendo compagnia in questo sabato del villaggio. Alla prossima settimana, ciao Davide Paolini. Ciao Davide, ciao.